431. Cavolfiore con la balsamella. I cavoli tutti, siano bianchi, neri, gialli o verdi, sono figliuoli o figliastri di Eolo, dio dei venti, e però coloro che il vento non possono sopportare, rammentino che per essi queste piante sono vere crocifere, così chiamate perché i loro fiori portano quattro petali in forma di croce. Levate a una grossa palla di cavolfiore le foglie e le costole verdi, fatele un profondo taglio in croce nel gambo e cuocetela in acqua salata. Tagliate la poscia a spicchiettini e tiratela a sapore con burro, sale e pepe. Mettetela in un vassoio che regga il fuoco. Buttateci sopra un pizzico scarso di parmigiano. Copritela tutta con la balsamella del numero 137 e rosolate nella superficie. Servite questo cavolfiore caldo, come tramesso, o meglio accompagnato da un umido di carne o da un pollo lessato.